24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano il duro richiamo del commissario europeo Olli Rehn all'Italia, che ha nuovamente esortato il nostro paese a fare riforme strutturali per fronteggiare la crisi. Contatti telefonici nel weekend tra Merkel, Sarkozy e Zapatero, mentre le borse chiudevano la settimana con nuove perdite. Oggi vi parleremo delle frizioni tra NATO e Italia su un grave episodio di immigrazione e vi porteremo in Ungheria, dove il governo attuale intende far causa agli esecutivi precedenti per i debiti accumulati. Infine, per il calcio, i sorteggi di Champions League. Italy has taken the measures to secure a balanced budget. Come state ascoltando, il commissario europeo Olli Rehn ha lanciato venerdì un forte richiamo all'Italia, l'ennesimo sulle riforme necessarie a far ripartire la crescita. Rehn ha parlato in una conferenza stampa convocata a Bruxelles sull'onda della crisi abbattutasi sulle borse. L'Italia deve accelerare le riforme, ha chiesto Rehn, che ha delineato i settori di intervento, apertura alla concorrenza delle professioni ancora chiuse e ulteriori interventi sul mercato del lavoro. Rehn ha pure invitato l'Italia ad accelerare la riforma del welfare. Sul piano europeo il commissario ha dichiarato che Italia e Spagna non avranno bisogno di alcun piano di salvataggio e che la Banca Centrale Europea farà di tutto per garantire la stabilità dell'Eurozona. Dobbiamo essere pronti ad aumentare le capacità del Fondo Salva Stati per adeguarlo alle esigenze, ha concluso Rehn. E l'Italia è stata esclusa dai contatti telefonici di venerdì sulla crisi tra il presidente francese Nicolas Sarkozy, il cancelliere tedesco Angela Merkel e il premier spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero. Una fonte governativa ha poi precisato che il premier Berlusconi ha parlato con Zapatero e con il presidente europeo Van Rompuy. Le misure anticrisi adottate dall'Unione Europea al vertice del 21 luglio sono efficaci, ma è giunta l'ora che le istituzioni e i governi comunitari passino all'azione. Lo ha affermato il primo ministro greco Gheorghe Papandreou in una lettera inviata al presidente della Commissione Barroso. Ed è stato un fine settimana di passione per le borse, ancora chiusura in rosso per le piazze d'affari europee in una giornata molto volatile. Londra e Francoforte hanno ceduto oltre il 2%, Parigi l'1%. Ma sentiamo ora come è andato il fine settimana a Piazza Affari nel servizio. Settimana da dimenticare per i listini europei e in particolare per Milano, che ha ceduto 13 punti percentuali. Nell'ultima seduta si è evitato il venerdì nero, ma la chiusura è stata comunque negativa per Piazza Affari. Il FTSE MIB ha ceduto lo 0,7%, il FTSE All Share lo 0,89%. Nel resto d'Europa i cali sono stati ancora più consistenti, con Londra e Francoforte che hanno perso oltre 2,5 punti percentuali, mentre restavano le forti tensioni sul debito di Italia e Spagna. A Piazza Affari la giornata è stata caratterizzata dalla ripresa del settore bancario dopo i pesanti crolli della vigilia. Bene in particolare Intesa San Paolo, che ha guadagnato il 5,61% grazie ai conti trimestrali sopra le attese, anche se in calo rispetto allo scorso anno. I risultati hanno trainato anche l'andamento di Telecom Italia, che ha chiuso in progresso del 5,3%. Vendite invece sugli industriali e sugli energetici, con Pirelli e Tenaris che hanno perso oltre il 5%. Guido Maurino, da Radio Corpo a Radio 24, il Sole 24 Ore. Il ministro degli esteri italiano Franco Frattini chiede un'inchiesta formale per capire cosa sia successo nel Mediterraneo, se sia vero cioè che una nave della NATO non è intervenuta per salvare i migranti a bordo di un barcone alla deriva, barcone a bordo del quale sarebbero poi morte decine di persone. Accuse respinte venerdì dalla NATO, che dice di rispondere e intervenire sempre in situazioni di emergenza in ottemperanza a quanto disposto dalle leggi internazionali. Paola Nania ha intervistato al proposito Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati. Io ho letto sui giornali di questa cosa. Certo è che se non si intensifica la collaborazione tra i mezzi navali ci saranno sempre più tragedie. È fondamentale che tutti i mezzi navali presenti nel Mediterraneo soccorrano queste carrette ed è altrettanto fondamentale che gli stati arrivino a un accordo su il porto dove far sbarcare queste persone, nell'ottica anche di una condivisione degli oneri, che per ora non c'è a sufficienza. Sicuramente se è confermata questa notizia che non c'è stato l'intervento di una nave a 27 miglia, sicuramente questo prova che non c'è una sufficiente collaborazione, così come abbiamo visto qualche giorno fa il fatto che c'è stato un soccorso di una nave NATO, ma questa nave è stata una settimana in attesa prima di sbarcare le persone soccorse, quindi questo scoraggia il soccorso in mare ed è appunto alla luce di queste situazioni che dico che bisogna fare due sforzi. Uno, tutti debbono collaborare e intervenire allo scopo di salvare vite umane, tutti i mezzi navali presenti nel Mediterraneo, ma la seconda è anche riuscire ad accordarsi per lo sbarco in un posto sicuro, altrimenti le navi non faranno il loro dovere di soccorrere, perché temeranno poi di stare per giorni e giorni in attesa di una soluzione. E l'Italia riceverà il prossimo anno oltre 52,7 milioni di euro dall'Unione Europea per il controllo delle frontiere esterne e per la gestione dei flussi migratori, lo ha annunciato il commissario Cecilia Malmström. Diminuiscono ancora gli aborti in Italia. Nel 2010 il tasso è sceso del 2,5% rispetto al 2009. Lo rende noto il Ministero della Salute, secondo cui il tasso in Italia è tra i più bassi nei paesi occidentali. Altre nazioni come Francia, Gran Bretagna e Svezia hanno tassi più elevati. Andiamo ora in Ungheria, perché a Budapest il governo vuole incriminare i passati premier socialisti per i debiti causati al paese. Sentiamo. Una legge sulla responsabilità penale di ex premier e ministri delle finanze per gestione criminale della politica economica. Questo è soltanto l'ultimo capitolo della rivoluzione proclamata dall'esecutivo di centrodestra ungherese guidato da Viktor Orban. Nel mirino in particolare tre ex capi di governo socialisti al potere tra il 2002 e il 2010, periodo in cui il debito pubblico ungherese è salito dal 53 all'80% del PIL. La mossa del governo di Budapest arriva sulla scia di un'indagine parlamentare la quale ha stabilito che le coalizioni a guida socialista hanno commesso crimini politici contro l'Ungheria e dovrebbero essere chiamate a risponderne in sede penale. Per l'opposizione interna si tratta dell'ennesimo esempio della deriva autoritaria dei nazionalpopulisti ungheresi. Se adottata, la legge potrebbe rappresentare un significativo precedente internazionale, come sottolinea il Financial Times. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per fortuna si è fatto male solamente a una spalla, ma poteva andare molto peggio all'attore inglese Rowan Atkinson, meglio noto come Mr. Bean. Un gran volo e l'impatto contro un albero mentre era alla guida della sua McLaren F1. Atkinson ha infatti una grande passione per le auto da corsa, possiede diversi modelli d'epoca, tra cui una Ferrari e una Aston Martin. Quest'anno ha anche preso parte alla Mille Miglia. È il primo matrimonio omosessuale per un parlamentare italiano, in questo caso una parlamentare, e in mancanza di una legge che in Italia lo permetta, è stato celebrato in Germania. Sentiamo. Paola e Riccarda oggi spose. Paola Concia, deputata del PD, ha sposato a Francoforte la sua compagna, Riccarda Trautmann, criminologa di Colonia. L'annuncio è stato dato dal sito di Vanity Fair con tanto di foto e video delle nozze bilingue. È un sehr Wunsch und freier Wille mit der hier anwesenden Riccarda Trautmann die Lebenspartnerschaft zu begründen. So antworten Sie auf meine Frage mit ja. È la vostra libera volontà di sposare la qui presente Riccarda Trautmann, allora risponderà con sì. Sì. Ad assistere alla cerimonia, si legge nell'articolo del settimanale, c'erano gli amici, fratelli e persino le ex fidanzate. Il padre anziano di Paola non è riuscito ad andare a Francoforte, ma ha inviato una commovente lettera che è stata letta durante il rito. Paola e Riccarda si sono conosciute 3 anni e mezzo fa e convivono dal 2009. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sport, calcio, sono gli inglesi dell'Arsenal agli avversari dell'Udinese nel turno preliminare di Champions League, lo ha stabilito il sorteggio di Nyon. Gli avversari della Roma in Europa League saranno invece gli slovacchi dello Slovan Bratislava per la Lazio e i macedoni del Rabotniki. Nuoto, Federica Pellegrini annuncia la fine del rapporto con il suo tecnico francese Philippe Lucas. Compleanno amaro per Federica Pellegrini. La nuotatrice ha ufficializzato la rottura con il suo tecnico, il francese Philippe Lucas, lo stesso che settimane fa l'ha condotta alla vittoria nei 200 e 400 ai mondiali di Shanghai. Non è bastato il record nella staffetta conquistato oggi con il suo club agli assoluti di Ostia, e nemmeno la vittoria nei suoi 400 stile libero con un buon 4 minuti e 54 centesimi. Dopo auguri, vittorie ed applausi, il momento dell'amarezza. Mi dispiace che sia accaduto soprattutto per il fatto che non abbia parlato con me ma con la federazione. Per lui, dice Federica, era andata a Parigi e si era rimessa in gioco. Ma ormai i cambiamenti non mi fanno più paura, conclude. In effetti, nel suo 23esimo anno, Federica di cambiamenti ne ha visti tanti. A fine 2010 la rottura con il tecnico che aveva sostituito Alberto Castagnetti. Poi, nelle settimane scorse, la fine della storia con il collega Luca Marin per un presunto flirt con Filippo Magnini. Ora le vacanze, dice, e il pensiero corre alla sua festa di compleanno di stasera. Anche qui, però, gli amanti del gossip non rimarranno delusi. Magnini ci sarà, Marin no. Giacomo Sigantini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per il nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.